No, frate, non guido un Hammer. Sembriamo usciti dai Marvel. Le pupille come Marte. Stanno arrivando le guardie. Volo di più di uno stuntman. Non mi chiamare se non è importante. A meno che non si tratti di piante. Occhi da Rivotril, posti da limousine. Quella dei miei amici non è tosse da nicotina. No, non fanno crossfit, non usano i post-it. Ma perché non trovano lavoro come gli Offspring? Il mio amico guida, frate, sembra Ryan Gosling. Pare abbia deciso di morire a tutti i costi. La mia vita è un cinema all'aperto, ti do il biglietto. Una tipa figa tipo Mille in Quinto Element. Se fa un'altra riga tipo mia siringa nel petto. Tutta questa ara in Amire Winda Memel. Sulla traccia la Bibbia. Sulla faccia canigia. Babangi da flow caterpillar. La capa gira stoca 3000. Grande buco ragazzi giù. Cazzo bu. Stavo in rosso frate Mao Zedong. Ora posso le mie tasche puff. Questo ho scritto Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood. Fra sembra di essere ad Hollywood. Siamo mostri, Space Jam. Sul palco sembri Rain Man. Tutto playback va dell'Air Band. A confronto siamo gli Iron Maiden. 21 grammi nelle Reebok. Con sta merda pago l'affitto. Caro diario, anche oggi il salotto sembra lo scenario di Apocalitto. Esco i grandi, svogliono le foto. Vengo con l'occhio rosso e sempre mosso come Michael J. Fox in un terremoto. No. Siamo scemo e più scemo, ma girato da Tarantino. Paura e delirio, fra è già garantito. Oscar statuetta, anche se farà schifo. Tuo padre ci vede e chiama la Digos. Ti ci metti contro, entri in una valle di lacrime, la valle di lacrime. Porta i miei saluti a Tutankhamon, stronzo, lo stargate nella piramide. Non ti bastano scorte, chiama Jason Statham Transport. M come morte, il finale è forte. Di partita con un colpo in fronte Mark Wahlberg. M c'è da un top, la mia merda al top. Tu sei Jeddar Bob. Yeah. Psicopatico in borsa. Psycho. Dammi un tavolo al Dorsia. Taxi driver in corsa. Dammi l'Oscar, sto strappato con Jam. Donnie Darko con Frank. Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood.